voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese. Sesta puntata. Così passavano quei giorni e sapevo che, uscendo a mezzogiorno, c'era Lubrani che la portava al bar. Me lo disse lei stessa, ma tutte le sere veniva con me e avrei dovuto essere geloso e non potevo. Che cos'altro poteva trovarci se non dei quattrini? Se veniva con me non cercava i quattrini. Mi ero quasi scordato di Amelio, ci pensavo soltanto quando uscivo di casa e passavo sul corso. Ormai vivevo come lui nei tempi che girava con Linda e lavorava. Mi mancava soltanto il lavoro. Non lo volevo da Lubrani, dissi a Linda che smettesse di seccare Lubrani. Come vuoi, disse lei, ma era l'unica strada. Al suo posto, le dissi, farei di tutto per levar di mezzo un Pablo. Sciocco, mi disse. È per questo che deve aiutarti. Non mi faresti tu un piacere se io volessi? Lui lo sa, disse poi, che se riesci ti gira la testa e non pensi più a me. Io non voglio riuscire. Riuscirai, disse Linda tranquilla. Sei giovane, non si può far l'amore per tutta la vita. Si sta insieme per questo. Dio mio, disse Linda, non si farà sempre l'amore. Si sta insieme, è un'altra cosa. Lo vedi, mi disse tranquilla, che l'amore non c'entra? Quasi ogni sera dicevamo queste cose e di giorno cercavo un lavoro. Mi ero messo col vecchio padrone di Amelio che aggiustava le moto, comprava e vendeva e gestiva un servizio di camion sull'autostrada. Nell'officina anche domani, mi disse, ma un motore l'affido soltanto a chi ha più di 30 anni. Ti fa male la testa? Non ne voglio di matti. Gli chiesi allora di lasciarmi accompagnare qualche camion per farmi un'idea. Tu suoni troppo la chitarra, mi rispose. Mi farai bere coi ragazzi. Se avessi osato tornare da Amelio, gli avrei chiesto una spinta. Lui conosceva tutti quanti in officina e sulla strada. Una volta mi avrebbe aiutato, pensavo. Una volta. Nel caffè degli autisti conoscevo qualcuno. È una brutta stagione, mi dissero. Si prende soltanto del freddo. Ma ce l'hai la patente? Non ti basta il negozio, mi dicevano in casa. Cosa credi di fare? Io cercavo un lavoro che potessi suonare la chitarra e trovarmi con Linda. Un'officina era lo stesso che il negozio. Quel che volevo era girare e far da me. Al caffè degli autisti vedevo le facce. Era gente che a volte faceva la notte. Quelli dei camion guadagnavano e giocavano robusto. Ne arrivavano all'alba, di sera, di notte. Mi venne in mente quel mattino che avevo preso latte e grappa in quel bar. Per lavorare, lo sapevo, bisognava darsi attorno. Ero disposto a lasciare Linda avanti giorno. Portare un camion non sapevo, non avevo la patente. Una sera, tanto che ero solo, ci venni con Lario e portai la chitarra. Il cameriere ci abbassò la radio, io sedevo davanti a un bicchiere e suonai finché volli. Sentivo dire è il tabaccaio e conoscevo qualche faccia. Alla fine trovai chi cantava e chiedemmo altro vino. Uno biondo, Milo, prese lui la chitarra. Era un diavolo lungo dalla faccia slavata. Suonò dei tanghi, ma gli dissero di smettere. Tu canta soltanto, gli dissero, lascia suonare la chitarra. L'indomani ero in camion con Milo e un meccanico più vecchio. Portavamo dei sacchi di zolfo a Casale. Ce ne partimmo con la nebbia, a fari accesi. Se troviamo il sereno, mi disse, ti lascio guidare. A Trofarello c'era il sole, presi il volante. Faceva l'effetto di guidare una casa. Erano brutte le discese, questo sì. Vedrai che strade in provincia di Alessandria. Occhio ai militi, disse il meccanico. Per fortuna non avevamo il rimorchio. Dove sbagli è nei cambi, mi dissero. Si capisce che tu andavi in balilla. Quel giorno ripresi la guida sovente quando la strada era buona. Milo mi disse, se portavi la chitarra, un'altra volta. Ci fermammo a Moncalvo. C'era la neve dappertutto. Cominciavo a capire perché per guidare ci vogliono gli occhiali. Lo stradone era tutta una poltiglia. Mangiammo un boccone in una stanza con la stufa, poi bevemmo un bicchiere parlando dei viaggi che avevano fatto. Milo era stato fino a Roma già una volta. Si guadagna, diceva, ma non si risparmia un quattrino. Cacciai fuori un pacchetto intero e li feci fumare. Io ero in Spagna una volta, ci disse il meccanico. Anche quella, che gente, la benzina è andata tutta nelle case per bruciarle. Allora Milo strizzò l'occhio. Ci sono i nostri anche dall'altra parte. Il meccanico disse, quando è vietato darsi botte nel locale, si va in piazza. A Casale altra nebbia c'era e poltiglia. Cambiamo il camion, tornavamo a Torino con un carico di cemento. Volevo andare un poco in giro a vedere, ma dissero, è meglio scaldarci. Sapevano loro una buona osteria e mangiammo e bevemmo decisi. Poi facemmo una mano alle carte. Era spuntato un po' di sole, una miseria. Ripartimmo e adesso il motore non era più lui. Cominciò a fare degli scherzi prima di Asti. Ci toccò stare per un'ora nella neve a bruciarci le mani sui ferri. Io cuocevo. Stasera non mi trovo con Linda. Finalmente il motore cantò. Ci pulimmo le dita nella neve, ci asciugammo e partimmo. Coi fari accesi, nella nebbia, arrivammo a Torino che era notte da un pezzo. Linda aspettava sulla porta. Per qualche giorno lasciai perdere e andai soltanto all'officina. Linda ammetteva che Lubrani le stava d'attorno, lo ammetteva ridendo e qualche volta ci scherzava anche con lui. Quel che da ridere dicevano è che abbiamo la casa a due passi e nessuno sapeva dell'altro. È tutto merito di Pablo, disse Linda. Lubrani era sempre elegante, coi 50 anni che aveva sulle spalle, quella voglia di mangiare, di sbronzarsi. Se non si fosse massaggiato, ben vestito e lavato al profumo, avrebbe fatto la figura di un facchino. Bagno turco, diceva, eliminare per i pori, è tutto qui, li abbiamo apposta. Chiesi a Linda una notte se l'aveva mai visto in mutandine da bagno. Ti piace? Le dissi. Deve averci dei peli fin sopra la schiena. Poveretto, disse Linda, magari è liscio e rosa come un bimbo. Me lo disse sovente che con tutti i suoi soldi era un povero diavolo. L'ha piantato la Clari, si è fatta dare l'usufrutto di un teatro e l'ha piantato. Devi vederlo. Quando ritrova una di noi che conosceva da bambine, ci corre dietro come un cane. È un bravo uomo e lavora. Tutti gli chiedono dei soldi e lui lavora. Si vede. Furbo. Lo sai che ha dei teatri dappertutto e ha cominciato senza un soldo? Non è un lavoro come i nostri. Lui telefona e viaggia, dà lavoro alla gente. Vive alle spalle della gente. Sciocco, ci vogliono gli uomini così. Per uscire con Linda sopportavo anche lui. C'era un locale a pochi passi dal Varietà dove si andava a mezzanotte a ber l'ultimo liquore, sentire la musica, fare il mattino. Le sere che Linda faceva tardi in sartoria l'aspettavo là dentro. A quell'ora ci passavano il tempo di vette, sportivi, prestigiatori e camerieri fuori turno, vetturini, ragazze. Era come seguire il Varietà alla rovescia. Ogni tanto una donna, un ometto, una famiglia di acrobati si alzavano e scappavano in teatro. Chi fumava, chi faceva crocchio, chi mangiava. Molti cenavano con pane e caffè e latte, dei bambini correvano. Di tanto in tanto un disgraziato si attaccava a una ragazza. La ragazza parlava al barista attraverso la sala, gli chiedeva qualcosa. Scherzavano. Il cliente se la rideva. Azzardava la sua. La ragazza allora cambiava di posa le gambe. Dopo un poco si alzavano e andavano fuori. Questo locale si chiamava il Mascherino. Nelle ore piccole chiudevano e l'orchestra attaccava, ma bastava passare dal cortile e picchiare all'imposta. Filtrava ancora un po' di luce nel cortile. Con Lubrani si entrava riveriti da tutti e c'era sempre un tavolino in un angolo all'ombra, dietro il ciuffo di piante, al riparo dalle coppie. «Non sei padrone anche di questo», disse Linda a Lubrani la prima volta che ci andammo. «Lo terrei molto meglio», disse lui. «Farei fuori sporcizia e marmaglia. Starebbe chiuso per un mese, poi camerieri in giacca bianca, orchestra jazz, luce diffusa». «Ha il suo bello com'è», disse Linda. Una donna faceva la matta e ballava da sola davanti all'orchestra che aveva smesso di suonare e si asciugavano il sudore. La gente, erano pochi, sparsi in tutta la sala, aspettava la musica e quattro o cinque giovanotti e ragazze accaldate battevano a quell'altra il tempo sui tavoli. La ballerina cacciava uno strillo ogni tanto, come si fa sul palcoscenico. «Fallo ballare con qualcuna», disse a Linda sottomano. Linda rise e ci disse che non avrebbe ballato né con me né con lui. Così restammo al tavolino e Lubrani parlò. Disse che a lui vedere le donne far da sole quel che si deve fare in due gli voltava lo stomaco. In teatro va bene, diceva, si fa per far spettacolo, ma una donna che perde la testa in un locale è una malata. Eppure le donne ubriache ti piacciono. Quando si è in due, puoi dirlo. E magari qualcuno che suona, ma da soli è un piacere sprecato. Pablo, che è giovane, può sprecare i piaceri. Noi no. Maleducato, disse Linda. Per un momento restò zitto a testa bassa, poi riprese, convinto. Tra noi ci sono somiglianze, cara mia. Una donna è più vecchia degli anni che porta. Noi due sappiamo come vanno le cose e dove vanno e quel che valgono. Siamo dei vedovi, noi altri. Lo guardavo e pensavo come sono le donne. Anche poche, anche Linda. Se per loro ogni uomo è davvero lo stesso, tanto varrebbe che si dessero a uno solo, che gli andassero dietro come il cane al padrone. E invece no, vogliono sempre avere la scelta. E la scelta la fanno mettendoli insieme, giocando con tutti, cercando in tutti un tornaconto. Così stan male tutti quanti, e anche loro, alla fine, non hanno un amico. Linda, le dissi, raccontiamoci stasera dove saremo quest'altro anno, se saremo contenti, con chi passeremo la sera e in che modo. Ci stai? Sì, sì, disse Linda. Chi comincia? O se volete, chi eravamo l'anno scorso, la sera del 20, come abbiamo passato quella sera e con chi? Riesce meglio. E chi si ricorda? Borbottò Lubrani. Ecco, gridò Linda, l'hai passata che nemmeno ti ricordi, hai sprecato un piacere. E chi ti dice che fosse un piacere? Dissi a Linda. Lui magari aspettava qualcuno, oppure viaggiava sul treno e c'è stato uno scontro, o il brutto tempo l'ha tappato in casa. Lubrani rideva tra sé, ci guardò con gli occhietti. La sera del 20, disse serio serio, si palpò in tasca e tirò fuori un librettino. Linda disse: che bellezza! Lubrani sfogliava con l'aria di un civico. 20-20, diceva. Che peccato, era l'altro anno. Fammi vedere, disse Linda, ma Lubrani levò la mano e si salvò. Fallo vedere, gridò Linda. Rovesciarono un bicchiere. Me la paghi, disse Linda. Sono cose da fare. Allora dici di quest'anno. Lubrani sfogliava schermendosi, borbottava dei nomi, un po' serio, un po' vago. Ragioniere, diceva, maestro, nottata, telefonato, dottore, maestro, Firenze, pianta grassa, Chianciano, nottata. Fammi vedere cosa hai scritto ieri sera. Ma Lubrani non volle e nascose il libretto. Dici tu cosa hai fatto la sera del 20. Sentiamo Linda. Linda fece una smorfia e brontolò che non teneva l'agenda. Non mi resta nemmeno quest'anno. Ho sprecato ogni cosa. Non ricordo più niente. Non c'è bisogno che sia il 20, dissi allora. Basta quel tempo. Basta il mese di dicembre. Lavoravo, disse Linda. Giorno e notte? Chiese Lubrani. Chi lo sa cosa ho fatto? Uno ricorda solamente quel che si fa per abitudine. Tutto il resto sparisce. Quello che hai detto e che hai creduto non c'è più. Mi ricordo un mattino che c'era una nebbia adovatta e sembrava che il mondo l'avessero tolto. Non si sentivano nemmeno i passi. Mi ricordo di questo. Ma con chi uscivi quelle notti? Lascia perdere, disse Lubrani. Tutti contiamo delle storie. Il mio ricordo non lo chiesero. Se mi fece piacere, non so. Linda stava aggobbita sul tavolo e disse: giochiamo a quell'altro. Che cosa faremo un altro anno quest'oggi? La donna matta aveva smesso da un bel po'. Qualche coppia ballava. Saranno state le 3 del mattino e la sala era vuota. Mezza orchestra dormiva. Io lo so, disse Linda. Cercheremo che cosa abbiamo fatto stasera. Bevi, bevi, le disse Lubrani. Vuoi che ricordi questo vino? Disse lei piagnucolando. Non appena fui solo con lei l'indomani per strada glielo chiesi: davvero non ricordi l'altro anno? Ci pensi ancora? Disse Linda. Io mi ero accorto ritornando a casa che preferivo vivere solo piuttosto che Linda scordasse anche me. Mi faceva un piacere carogna pensarci. Se di colpo smettevo di uscire con lei, forse l'avrei mortificata, non mi avrebbe più scordato. Io mi ricordo ogni momento che ti ho vista, le dissi. Può darsi. Era come se l'avessi già fatto. Mi tremavano i denti. Da stanotte ho capito chi sei, dissi piano. Lei mi prese per mano e diceva qualcosa. Dunque l'altro anno non uscivi, le dissi. Mi tenne il braccio e mi guardava brusca. Cosa c'è? Niente, le dissi. Ma perché fai questo? C'era Amelio. E l'hai detto che eri stata in montagna con lui, quella sera che avete ballato nel portico. Non si può dirvi una parola, mi fece. Anche tu. Discorremmo così dai suoi anni passati e mi disse molte cose e divenne malinconica. Dovevamo andare al cinema e non andammo. Ci comprammo le castagne arrostite, passeggiammo in riva al Po. Veniva notte su quei corsi e i lampioni erano accesi e avrei voluto che durasse sempre, perché adesso sapevo che l'idea di lasciarci e non più rivederci mi tagliava le gambe. Era come avessi messo le radici nel suo sangue. Il suo fianco era il mio, la sua voce era come abbracciarla. Mi raccontò che da ragazza era stata in collina con un poco di buono e che si erano presi sull'erba. Disse che questa è una sciocchezza, che il mondo ne è pieno, e mi chiese se neanch'io ero cambiato in qualche cosa dopo fatto l'amore con la prima ragazza. Poi parlammo di Amelio e negò di aver fatto l'amore con lui. Che spavento, mi disse. Gli voglio bene ancora adesso, le spiegai, ma non posso più andarlo a trovare. Non mi piace la vita che faccio, sempre con quel merlo di Lubrani alle costole. Perché non stiamo noi due soli, Linda? Ma se di notte ci andavamo con Lubrani nel pomeriggio, il mascherino mi piaceva, era comodo, e Linda veniva a cenarci con me. Io la mattina stavo molto all'officina da apprendista e lo facevo per tenermi padrone. Ma in casa strillavano e dicevano: mettiti al banco. Mi ci misi una volta, ma con la chitarra. E quando entravano i clienti non smettevo. Toccava lo stesso alle donne sbrigarsi, così non fecero più caso alle giornate che ero fuori. M'ero convinto che un bel giorno avrei trovato il mio lavoro, sulle strade, in un'altra città, purché Linda ci stesse. Qualche soldo lo feci negoziando la musica. Avevo in casa gli spartiti e l'armonia, e al mascherino feci presto a metter mano sui cantanti. Ce n'era sempre che mancavano di tutta l'orchestra, specialmente le donne. E allora dissi: metto foglio e trascrizione, costa tanto. C'era un vecchiotto, Carlo Andrea, che viveva di questo. Ce ne fu anche per me. Da giovane suonava il clarino in un'orchestra, poi l'asma l'aveva fregato. Non capiva perché non volessi saperne di fare il solista. Più il solista di quello che faccio già, gli dissi. Suono sempre da me. Conosceva Lubrani e diceva: è un vero signore. Linda vedeva e non capiva. Non voglio entrare nelle grinfie di Lubrani, le spiegai. La chitarra non è lavorare, sarebbe come essere pagato per vestirsi elegante. Il mio lavoro è l'autostrada. Linda entrava la sera quando il locale era in penombra. C'era dei vecchi sofà rossi, ma prima di mezzanotte non si accendeva il candeliere centrale. Per noi altri bastava. Linda mangiava delle uova e un po' di latte. Io le tenevo compagnia. Mi raccontava del lavoro all'atelier di chi aveva veduto. Quasi sempre Lubrani le aveva telefonato per trovarci al paradiso, per trovarci in teatro. Preferivo il teatro, perché almeno le stavo vicino. A volte dicevo: ma vada all'inferno. E riuscivo a far sera noi due, dando un cane a Lubrani. La volta dopo lui non ne parlava. Quel Carlo Andrea era una piattola e vederlo toglieva la voglia di fare il solista. Alla prima disgrazia si finisce così, dissi a Linda. Così come? Vecchi, infatuati e miserabili. Si finisce così in tanti modi, disse lei, cheta. Per disgrazia da ridere ce n'era là dentro, c'era la storia di Minnie la portinaia. Questa Minnie cantava un tempo al Meridiana, l'avevo vista a quei tempi, sembrava un po' come mia sorella, voglio dire, non era tagliata al mestiere che sua madre le aveva trovato. Non aveva che gli occhi e una pelliccia di coniglio, ma era sempre una stella e la madre veniva a pigliarla all'uscita. Una sera rivedo la vecchia al mascherino, discuteva in un crocchio, c'era Linda con me, discuteva di Minnie e le leggevano una lettera. Credevo fosse un uomo ricco, cara mamma. Una cosa così non avrei mai creduta. Credevo fosse ricco, ricco, e gli volevo tanto bene. Che cosa ho fatto, cara mamma? Linda rideva. Vecchia stupida, disse. Le raccontai che conoscevo quella Minnie. Linda scosse la testa e guardava la vecchia. Poi le dissi degli incontri che facevo la notte su Corso Inghilterra. «Come siete voi altri?» mi disse. «Comperate una donna per strada come si compra le castagne. Dove vi portano a godere?» «Non compro niente», le risposi. «Ma vi piace che siano sul corso. Finché dura l'amica magari non ne avete bisogno, ma domani accettate anche loro». Linda parlava in quel modo imbronciato che sembrava scherzasse. «Una volta ci andavi, lo so. Com'è che dicono? Dammi la cicca?» Le vedevo ogni sera tornando da stare con lei. Non era più come gli altri anni, che ci passavo proprio in mezzo e dicevo: «È una vita anche questa». Ci soffrivo. Passeggiavano in mezzo alla neve e il puntino rosso della sigaretta nascondeva la faccia. «Una donna che fa quella vita è una stupida. Non si sa, hanno bisogno». «Dammi la cicca», disse Linda ridendo. «Sono stupide». Io pensavo a quell'altra, che con Milo avevamo trovato per strada, tornavamo a Torino da un trasporto a Pianezza. S'era fatta pigliare sul camion e salendo ci aveva mostrato le gambe. «Guida tu», disse Milo. Io guidai fino a casa. Loro due si schiacciavano nella cabina, si succhiavano il sangue. «Mi sbatti fuori», gli diceva lei, ma non era di quelle vestite da festa, non era nemmeno dipinta. Sembrava una donna di casa sui 30 o 40, con la faccia magrissima e quegli occhi affamati. «Il tuo amico non è come te», gli disse. Io guidavo e pensavo: «Anche tu sarai stata la Linda di qualcuno». Linda mi disse a Capodanno che avrebbe presto fatto un viaggio. Me lo disse ridendo, come si fa sulle carte. Quella sera per caso eravamo scampati a Lubrani e cenavamo al Mascherino e avremmo fatto mezzanotte nella stanza di Linda. Era già inteso e avevo voglia di ballare. Disse: «Un viaggio, c'è un viaggio per me». Non lo sapeva ancora certo, ma comunque non più di 6 giorni di assenza. «Per affari», mi fece ridendo. «Tu stai buono e vedrai quando torno». Ma quella notte ci scordammo anche del viaggio. L'indomani al Mascherino trovammo Carletto, che veniva da Genova. Valerio Binasco ha letto Il compagno di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.